uguali a cambiare il profumo dell'ego è superficiale. Vuoi mette parole da farti assaggiare? Ti parlo di morte, il rimedio al mio male. Ritengo che il sole sia il buio infernale. La forza dell'ego è superficiale. Idiosincrasia reagisce male all'impatto quando si